Ella Maillard nacque a Ginevra nel 1903. Fu una grande viaggiatrice, reporter e fotografa, ma prima fu una sportiva famosa in tutto il mondo. Fu la madre danese a trasmetterle fin dall'infanzia la passione per lo sport, l'indipendenza, la libertà e un rapporto armonioso con la natura e il corpo. Già adolescente, ella andava a vela. A 13 anni vinse la sua prima regata con l'inseparabile amica Miette. A 16 attraversarono in barca il Mediterraneo. A 21 ella partecipò alle Olimpiadi di vela, dove fu unica e più giovane donna a capo della squadra svizzera. Prima della maturità abbandonò gli studi e tra i 22 anni e i 26 fu marinaia, datilografa, rappresentante di commercio, insegnante di francese e di inglese. Preferiva insegnare ai bambini perché così le veniva offerta la merenda e, scrive, almeno un pasto al giorno era garantito. Fece anche la comparsa cinematografica, cosa che le si rivelò utilissima, poiché sul set imparò a usare cineprese e macchina fotografica, fondamentali per finanziarsi i suoi successivi viaggi. In seguito, con un equipaggio composto da quattro donne, cercò di attraversare a vela l'Atlantico. L'impresa però si bloccò perché Miette, la compagna di avventure marinare, si ammalò. Così ella decise di abbandonare definitivamente le traversate in mare per dedicarsi all'esplorazione in terraferma di paesi e confini lontani, ricchi di storia, raggiungendo con inimmaginabile tenacia e coraggio traguardi incredibili. A Parigi aveva sentito parlare della Russia come di un luogo dove si stava sperimentando un nuovo mondo e decise di visitarla. Si trasferì a Berlino e da lì, una volta ricevuto il visto, prese il treno per Mosca con 50 dollari regalati da un'amica, un dizionario di russo e una macchina fotografica. Aveva 29 anni. Si rese conto che a Mosca, per fare qualunque lavoro, avrebbe dovuto frequentare un corso di 3 anni per assimilare l'ideologia comunista. La cosa non le garbava molto, così decise di continuare il viaggio verso il Turkestan per incontrare il popolo nomade dei Kirghisi. Di nuovo si scontrò col problema del visto, che non arrivava mai. Per evitarlo, decise di unirsi a un gruppo diretto in Turkestan a cavallo attraverso le montagne, con tutto il suo equipaggiamento chiuso in un sacco e, la cosa più importante, come racconta nei suoi scritti, i suoi scarponi ai piedi. Quando finalmente incontrò un gruppo di kirghizi, fu invitata nella yurta del capo, dove la donna più anziana le offrì brodo e carne di montone e latte di yak fermentato. Ella racconta che, non avendo acqua e sapone per lavarsi le mani unte, se le pulì sugli scarponi, imitata dai kirghizi, dei quali non capiva una parola, ma che sembravano approvare l'ingrassaggio degli scarponi. Fu invitata a dormire nella yurta insieme a loro e fu proprio in quel luogo così lontano dalla civiltà e dalla sua casa che ella sperimentò la libertà che cercava. Per poter proseguire verso il Kazakistan, vendette il cavallo e continuò a piedi, da sola e di nuovo senza visto. Riuscì sempre a eludere i controlli, come già prima di lei l'esploratrice Alexandra David-Neill, mischiandosi alla gente del luogo, facendo la coda per il pane o per attingere acqua alle fontane. Non volle mai approfittare dei privilegi che venivano tributati alle donne occidentali nell'Asia centrale. Fortemente anticonsumista, voleva mischiarsi ai popoli e alle tribù che incontrava e presso le quali trovava ricovero e protezione, ma non da straniera, bensì come una di loro, condividendo il loro cibo, gli spazi per dormire e molto spesso l'impossibilità di lavarsi per giorni. Con la somma fruttatale dalla vendita del cavallo, comprò un biglietto ferroviario per l'Uzbekistan dove poté fotografare le moschee vuote a causa del divieto sovietico di praticare qualunque culto. Nella capitale uzbeka scoprì che, nonostante fosse stato proibito, le donne continuavano a portare il velo lungo fino ai piedi. Ora, annotava, le donne non si sposano più a 12 anni. Viene loro insegnato a leggere e nelle ex scuole coraniche studiano la storia del partito proletario. Quando di nuovo terminò i soldi, Vendette quello che le era rimasto nel sacco, una forbice, un coltello e un orologio, e riuscì sia a stampare le fotografie che aveva scattato, sia a comprare del sapone. Decise di mettersi sulla via del ritorno, attraversando il deserto del Karakum in Turkmenistan. Fu durante i 500 km di traversata a dorso di cammello che durante una tempesta di ghiaccio notturna rimase indietro, perdendo le guide e rischiando di morire. Ella viaggiava nella maniera più spartana che si potesse immaginare, con nient'altro che gli abiti che aveva indosso, un sacco a pelo e poche provviste nello zaino, spostandosi a piedi, in carro, in treno, a dorso di qualche animale da soma, a volte trovando ospitalità addirittura in barche ormeggiate sulle rive dei laghi. Viaggiò in Cina per realizzare un reportage sulla Manciuria occupata dai giapponesi e a 35 anni raggiunse l'India attraverso la Turchia, l'Iran e l'Afghanistan. Ella viaggiava per conoscere popoli lontani, ma anche e soprattutto per conoscere se stessa. Il suo viaggio era prima di tutto una crescita interiore, poiché alcune di noi sanno che affrontare un viaggio da sole in luoghi lontani è una prova molto vicina a una vera e propria iniziazione in cui, separate dalla routine e dalla cosiddetta zona di comfort, ci è possibile misurare con chiarezza e sul campo il nostro valore. Nei viaggi in solitaria, con equipaggiamento ridotto, si sopravvive grazie a se stesse, al proprio coraggio, creatività nell'affrontare le difficoltà, sangue freddo e intelligenza. Le donne hanno bisogno di misurare in questo modo il proprio valore. Dopo secoli in cui quest'ultimo è stato riconosciuto solo in base alla quantità di figli maschi partoriti. Divenuta buddista, scrisse: «Mi augurerei che il viaggio durasse tutta la vita. Nulla mi attrae in Occidente, dove, lo so bene, mi sentirei sola tra i miei contemporanei, le cui preoccupazioni mi sono divenute strane. L'Asia è un paradiso perduto, un mondo originario, semplice, armonioso, dove vi è ancora spazio per quel fattore sconosciuto chiamato divino». La scuola delle donne vuole proporre l'audiolettura di La Via Crudele, due donne e una Ford dalla Svizzera all'Afghanistan, che Ella Maillard scrisse per documentare l'incredibile viaggio a bordo di una Ford insieme ad Anne-Marie Schwarzenbach. Della Svizzera, Anne-Marie, ci siamo già occupate in un docuvideo di cui lasciamo il link in descrizione. Leggendo brani di Tutte le strade sono aperte, il diario dello stesso viaggio scritto però da Anne-Marie. Un viaggio, due diari, due sguardi molto diversi, come diverse erano le due viaggiatrici e scrittrici, ella, solare, positiva ed energica, Anne-Marie, per la quale nel libro viene usato lo pseudonimo di Christine, l'esatto contrario, sognante, fragile e morfinomane. Durante il viaggio le due donne si trovarono a fronteggiare i loro demoni interiori. Ella voleva aiutare Anne-Marie a liberarsi dalla dipendenza, ma proprio questa fu la causa per la quale a un certo punto, dopo aver attraversato Jugoslavia, Bulgaria, Turchia, Iran e Afghanistan, il viaggio insieme si interruppe. Anne-Marie tornò con la sua auto in Svizzera, mentre ella proseguì da sola per l'India come programmato. Anne-Marie aveva scelto la via crudele, quella dell'autodistruzione che dà il titolo al libro. Ella terminò i suoi anni in Svizzera scrivendo articoli e libri e a 94 anni lasciò il corpo nel 1997, dopo una vita ricca, intensa e operosa. La Scuola delle Donne è lieta di offrirvi La via crudele, due donne e una Ford dalla Svizzera all'Afghanistan di Ella Maillard. EDT Edizioni, traduzione di Silvia Vacca. Da Devana, buon ascolto.